abbiamo un'altra corrispondenza in diretta, in questo caso invece di quella che è la parte che era un po' più indietro nel corteo, che adesso a quanto pare è dalle zone di Piramide, dico bene? Adesso in questo momento sì, siamo su via dell'Aventino, quasi a Piramide. Voi praticamente eravate indietro, no? Nel corteo, non abbiamo ben capito la dinamica. Ah, ok. Eravamo al centro del corteo. Al centro del corteo, ad un certo punto, su via Rampigliana, sono iniziati gli scontri, soprattutto i tronteggiamenti con le guardie davanti e poi anche dietro, perché le guardie hanno interrotto il corteo dietro di noi, dividendo il corteo in tre tronconi, e noi stavamo in mezzo, al troncone centrale. Okay. E c'erano gli scontri davanti e ad un certo punto ci hanno iniziato a caricare da dietro. Questo più o meno che ore erano quando è successo? Nel primo pomeriggio? Guarda, almeno 2-3 ore fa. Almeno 3 ore fa. D'accordo, ma poi siete rimasti fermi lì, dico, siete rimaste ferme lì. Siamo rimasti fermi al centro di via Rampigliana per una mezz'oretta, ma ad un certo punto, quando sono partiti gli scontri da dietro, abbiamo provato ad andare avanti. C'era ovviamente la caserma che bruciava e c'erano le guardie davanti che cercavano di fronteggiarci. Siamo risaliti sopra per via Merulana. E siamo andati verso San Giovanni, perché appunto ci dicevano che anche a San Giovanni c'erano scorso altri scontri. All'inizio abbastanza lievi, ma quando la polizia, appunto dividendo il corteo in tre tronconi, ha iniziato ad attaccare da tutte le parti, ovviamente gli scontri si sono amplificati. Da 200 persone che erano, sono diventate 4.000. Chiaramente, sì. E quindi voi poi avete deviato e siete andate su Fori Imperiali, piazza, cioè come siete arrivate lì a Piramide? A un certo punto davanti a noi c'erano tutte le guardie con i blindati. La piazza era stracolma. Ad un certo punto sono iniziate ad arrivare le camionette con gli tratti alla gente in mezzo alla piazza. Ci stava un sacco di gente che si stava sembrando male tra l'altro, quindi siamo andati a concordare con le guardie dietro almeno un parco d'uscita per i tir e per la gente. E quindi siamo indietreggiati e niente, praticamente un grossa parte del corteo, non lo so, 50.000, 100.000 persone almeno, forse anche di più, ha trovato un parco verso Piramide. Adesso è tutto bloccato da Piramide a Circo Massimo al Colosseo, perché anche il suo pezzo di corteo che è stato fermo 2 ore tra il Colosseo e via Rampigliana, ad un certo punto è riuscita a indietreggiare perché non poteva più andare avanti e si è ricongiunto a Circo Massimo con l'altro pezzo che veniva da San Giovanni. D'accordo, abbiamo capito. Adesso avete più o meno idea di che cosa farete da ora in poi oppure no? Guarda, ancora non lo sappiamo, sicuramente adesso ci mettiamo qui a Piramide, ci fermiamo qui perché c'è un sacco di gente, forse c'è anche insomma la voglia di fermarci, di rimanere qua e bloccare bene ancora la città per tutto il tempo che riterremo opportuno. Va bene, da Indimedia Italia vi ringraziamo anche di questa corrispondenza, vi diciamo di fare particolare attenzione soprattutto alle persone che vanno verso Termini, in quanto anche Termini in questo momento pare una, cioè sembra esserci una situazione complicata all'interno della stazione. Quindi okay, se c'è gente che... per il momento ci fermiamo qua. Sì, magari potremmo. Nel caso in cui serve, richiamate questo numero dal quale vi abbiamo chiamato, d'accordo? Dai. A più tardi, ciao, grazie mille. Ciao, grazie.